si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Devo dire che le richieste riguardo alla trasmissione di oggi ci avrebbero portato verso un argomento che è piuttosto scivoloso da trattare. Perlomeno ho preferito prendermi una pausa. L'ultima telefonata di ieri sulla signora che dava così ampia e sincera dichiarazione delle sue basse legnosità mi ha dato modo di capire che esiste una categoria umana ben classificata, ben conosciuta e ben delimitata, che è quella delle fighe di legno. Tutti oggi avrebbero voluto che io parlassi di questo. Sono arrivate molte telefonate, molti messaggi, nel profilo Facebook è stato l'argomento che ha tenuto tutta la giornata. Ma oggi vorrei glissare, immaginate che l'argomento lo prenderemo un'altra volta, immaginate che in fondo parliamo di qualcosa che potrebbe galleggiare, quindi l'argomento di oggi è un altro luogo dell'immaginario, questa volta però più legato alla libertà, all'espansione, piuttosto che alla chiusura, piuttosto che alla secca legnosità di cui accennavamo ieri, è quello del mare. Sentite in sottofondo già, vi faccio ascoltare quella che è una suggestione marina, legata però a un mare particolare, al mare dell'immaginario, al mare dei miti, al mare della fuga, al mare che sottolinea ogni nostro metropolitano desiderio di uscita dal reale. Sono già alcune settimane che noi sentiamo dire, ovunque noi troviamo assembramenti umani, finalmente andiamo al mare, non vedo l'ora di andare al mare, sei stato al mare. Sembra quasi una necessità dell'uomo inurbato, dell'uomo abituato a vivere con i piedi sulla terraferma, di avere, se non altro come rifugio dell'immaginario, la possibilità di andare al mare. Io vivo a Roma, per un romano andare al mare, cioè il mare di breve cabotaggio, quello che si raggiunge nel giro di meno di un'ora, si può fare una toccata e fuga entro la giornata, non è mare. È una pozzanghera puzzolente in cui si galleggia nei reflui organici delle famiglie, delle case costruite in maniera abnorme, vicino appunto alla linea di battigia, e si sta lì, si sta al mare, ci si abbronza, si fa il bagno in piscina, si mangia il pesce nel ristorantino tipico nel borgo marinaro. Insomma, è un'idea ricostruita, è qualcosa che del mare ha soltanto forse qualche volta, quando il vento non porta l'odore di fogna, un ricordo lontano. Beh, invece il mare è sempre presente, anche se non c'è mai, anche se c'è questa immagine palliativa. Tutti sogniamo di andare al mare. Perché il mare è così vicino al nostro desiderio di fuga? Forse perché al mare, immagino io, si ha ancora una volta la possibilità di un contatto corporeo totale con la natura. Al mare si sta molto poco vestiti, al mare si è ricoperti di sabbia, al mare quando si può fare il bagno in qualcosa che non sia lo scarico di una fogna, si ha il piacere di avere la pelle a contatto con l'elemento naturale. Non c'è più bisogno di profumarsi, di imbellettarsi, di cospargersi di creme, di oli e di preservare la nostra pelle come se fosse qualcosa di corruttibile, ma si ha come l'impressione di essere qualcosa che fa parte del grande agglomerato della natura. 800 24 00 24, se io vi dico andiamo al mare, voi cosa pensate? È l'olandese volante! Oh, che è stato, per mille gabbiani? Forse una secca? Questo è uno dei due fronti attraverso cui ci si destreggia nell'immaginario marino, quello dei pirati dei Caraibi, che non a caso è un filone molto recente, molto suggestivo, di mare inteso come grande fornitore di mito. Ma i pirati entrano anche prepotentemente nel nostro quotidiano, il mito tracima nel reale, quanto ormai l'incubo dei pirati assale anche dei semplici villeggianti, dei croceristi tranquillissimi, di famiglie che fanno questa botta di vita ormai alla portata di tutti, di passare una settimana in transumanza velocissima tra un porto e l'altro, discesa a terra, visita dei musei nel posto tipico, shopping, poi si risale, poi si va nel salottino, poi c'è l'animatore, poi c'è la discoteca, poi c'è la piscina, poi bambini che urlano, poi burini con le ciabatte, l'accappatoio che vanno nei salottini lussuosi, insomma tutto questo entra in collisione con l'immaginario marino, con i pirati. Improvvisamente i pirati che vengono dal mare sembrano voler inquinare, ma allo stesso tempo esaltare, portare nella dimensione del mito anche il modesto e tranquillo sogno marino impiegatizio. Ciao Rossi, siamo qua tutti a mare. Aspetta che ora ti mandiamo un messaggio. Messaggio Federica e mamma. Ciao Fede, ciao. Ciao Rossi, ciao Dio. Ciao Rossi, ciao. Gay, gay. Il rito dei gay. Il rito dei gay. E spruzzatevi con i bambini. Fate il plush plush con i bambini. Polignano, stiamo benissimo, eh? Ora vi faccio vedere le spiagge. Simona! Ciao, mi manchi tanto amore! Ciao, ciao, ciao! Ciao, bellissima! Ti aspetto per Marco. Questo è Tutti al mare web 2.0. Grandi rassegne di saluti burini, di persone che stanno al mare. E a loro non basta essere nel luogo privilegiato di ogni fuga metropolitana, devono certificare questo loro stato privilegiato e quindi si riprendono con il videotelefonino e postano su YouTube i saluti agli amici, le cartoline agli amici, si riprendono che sguazzettano in riva al mare, si riprendono con grandi cocktail sorseggianti tra cannucce e trionfi di frutta e verdura, e si riprendono facendo le normali e tranquille facezze marine di ogni essere umano che si reca al mare, e lì poi lo mettono nel luogo di massima diffusione che è su YouTube. Quindi questo è l'altro aspetto, l'aspetto mitico assoluto condiviso da sempre del mare come luogo di fuga, come luogo del mistero, come abisso insondabile, come elemento differente rispetto a quello in cui viviamo, e l'aspetto mitologico popolare, il mare come possibilità di status, non tanto perché chi va al mare ha una capacità e un potere d'acquisto, appartiene a una casta privilegiata. Oggi tutti vanno al mare, tutti possono andare al mare, anzi più è basso il livello di attenzione alle molteplici curiosità che offre la contemporaneità, è più alto il desiderio di frequentare le zone affollate del mare. Sapete che nei luoghi frequentati da personaggi famosi esiste un particolarissimo e interessante passatempo, quello di andare fuori dalle discoteche, fuori dai luoghi privilegiati, e fotografare i VIP che stanno al mare, quindi respirare il privilegio anche dei tritoni e delle sirene e delle deità marine che in quel momento in quel mare affondano. Sandro, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Senta, io volevo dirle questo. Abito a Chiavari, che è, diciamo, al centro del Golfo del Tiguglio, e in più dalla città mi sono spostato su una collina da cui vedo il panorama del mare, perché il mare mi ha sempre ispirato quel senso di infinito, come dice Dante, no? Cioè questa voglia comunque di esplorare, di partire, di prendere la barca, di andare. E quando io ho lavorato in due città di pianura, mi davano questo senso di oppressione, no? Perché comunque non si vedeva uno spazio, un al di là, insomma. Ecco, lei esprime l'atteggiamento opposto rispetto a quello di noi esseri terreni, abituati a essere uomini di terra. Noi cerchiamo quello che lei vive come quotidiano. Lei sente come oppressivo quello da cui noi fuggiamo quando ci illudiamo che semplicemente passare 15 giorni al mare possa ridarci una dimensione perduta. Sì, esatto. Ecco, lei come vede invece la gente di terra che viene al mare, questo passaggio veloce e stagionale? Io la capisco perfettamente, perché avendo lavorato in queste città del nord, della pianura padana, io al venerdì avevo questo proprio bisogno fisico di partire e dicevo metto la prua a sud, la macchina mi sembrava una barca, metto la prua a sud per tornare al mare. E la prima cosa che facevo era andare sul lungomare, che piovesse o c'era il sole, per respirare proprio il salino, quest'aria qua che mi ridava quasi la vita, no? Fabrizio, buongiorno. Fabrizio? Il mare. Sì. Mi senti? Sì, adesso sì. Ecco. Il mare io sono un ottimo nuotatore da circa 22 anni, che ora mi piace nuotare nei posti dove mi incontro con i motoscafi, e questo mi crea grossi problemi perché ho paura di essere fatto a fette. Però il mare della Liguria mi delude moltissimo, nel senso che ultimamente c'è tanta di quella schiuma bianca che alla fin fine poi è fognatura di depuratori che funzionano male. Ecco, ma secondo te, visto che noi esseri di terra inseguiamo il mare perché in fondo è il residuo luogo condiviso dell'immaginario alternativo rispetto al nostro quotidiano, non ce ne sono altri così fortemente condivisi. È un'idea che ormai non corrisponde più a un modello completo di mare. Pur di andare al mare si va in posti, come dici te, anche perché molte volte non è che il mercato offra a prezzi contenuti, a distanze possibili, alternative molto forti, quindi ci si accontenta pur di andare al mare. Io mi sono sentito veramente al mare, ma veramente al mare a Pantelleria. A Pantelleria, ecco, lì sentivo l'aria del mare, il mare mi buttavo dentro, era acqua vera. Ma quando vado nelle lunghe coste delimitate da porti, città, poi paesi, poi città, poi l'Aurelia, poi città, cioè qualsiasi mare nella terra lunga non mi sembra mare, a meno che non vado nel Salento, allora là ancora riesco a godermi qualche cosa, ecco. Abbiamo anche Renzo, lei vive sei mesi all'anno in un'isola delle Eolie. Io vivo a Fitcudi 6 mesi l'anno, è stata una mia scelta. Ecco, io volevo parlare e isola di noti VIP fighetti romani anche. Sì, l'isola di Fitcudi, indipendentemente dalle sue considerazioni, è una magnifica isola con un mare stupendo. Vabbè, non mica ho bestemmiato, ho detto qualche che... mese l'anno. Ecco, qua tutto questo si infrange nei mesi di luglio e agosto, quando il mare diventa, a causa delle barche veramente che arrivano in numero veramente abnorme. E quindi mi dà ragione. Puoi nuotare, prego? Quindi mi dà ragione. Indipendentemente dalla colorazione politica di chi può più. Ma mica ho detto politica, ho detto fighetti romani. Guardi, mica ho detto fighetti di destra, di sinistra, di centro. Ho detto fighetti romani. La fighetteria passa attraverso tutte le visioni della vita e tutte. Per essere un'isola, guardi, io posseggo una casa del 1971, per cui in età certo non sospetta. In ogni caso, ritorniamo al mare, che è una considerazione. Sì, ma lei non si sente così spaventato da quello che dico io. Guardi, mica la contamina al fatto che siano noti personaggi. Filicudi è un luogo in cui si sente dire nelle terrazze romane: ci vediamo a Filicudi. Cudi, ma questo non toglie nulla né all'isola, né agli abitanti, né alle persone come lei fortunate. A lei interessa molto poco di parlare del mare. No. Vabbè, senta, le persone così pronte a offendersi e così poco disponibili al dialogo non mi spaventano, ma lui vuole parlare del suo mare di Filicudi, una persona fortunata che ha una casa, che abita lì da mesi, ma non se la sente di dire che ci sono posti che comunque alcuni mesi all'anno, come lui stesso mi confermava, diventano un'altra cosa. Si perde il concetto del mare, si va in quel luogo perché ci sono delle persone che contano, ci sono delle persone con cui è importante fare giro, fare assemblea, ma non pensavo solamente né a colorazioni politiche né a colorazioni di altro tipo, pensavo soltanto e unicamente al fatto che il mare è un concetto astratto, è un concetto che ha un'infinità di accezioni anche molto profonde, come alcune volte i nostri ascoltatori ci hanno dato modo di riflettere. Ho vissuto l'emozione dell'immersione, della piccola immersione, e mi sono trovata a nuotare nel senso della corrente quando ero stanca, e venendo io nel controcorrente per tornare verso casa lungo la barriera, ho incontrato queste ombre che mi sono apparse quasi un po' minacciose, devo confessarlo, che mi venivano incontro, e poi mi sono accorta che erano delle cernie. Ho in collegamento Deli Carbonari. Deli Carbonari, buongiorno. Dali Carbonari ha scritto un libro, I racconti dello skipper, Murcia, uscito da poco, e fa una professione che lo porta a stare molto spesso al mare, ma stare anche al contatto con persone che si affidano a lui per conoscere il mare. Sì. domanda che vuole sapere, cioè, beh, quello dello skipper è quello appunto di... Quello che mi racconti un po' come funziona, lei è la persona che in fondo è più qualificata a dare una visione concreta e realistica del mare, che non sia soltanto il mare come luogo dell'immaginario, luogo della socializzazione, o luogo della fuga, o luogo dell'incontro con persone che contano. Ma il mare è un po' tutto, perché ci si va in vari modi e diciamo andare in barca a vela è un modo bello perché è molto a contatto con la natura, perché quando si naviga non c'è il rumore del motore, è un modo che ti consente di andare, di scoprire i posti più lontani, di scoprire le baie dove non c'è nessuno. Ecco, chi accetta di fare questo incontro con il mare naturalmente fa già una scelta che richiede un impegno. Scegliere di andare a fare un viaggio in barca a vela comporta di stare ad alcune regole, di seguire alcuni comportamenti, nulla a che fare con quei file che abbiamo fatto sentire prima, il mare degli sbracati, il mare dei chiassosi, il mare di chi ci va soltanto per dire al mondo che è andato al mare. Ma è un modo, diciamo, il mare chiaramente ognuno lo vive a modo suo, per cui è abbastanza grande e c'è spazio per tutti. Chi ama viaggiare in barca a vela evidentemente ha un tipo di contatto diverso, chiaramente diciamo che poi le situazioni che si presentano sono poi più o meno le stesse, cioè nel senso che anche chi ha in barca, che ama il mare, c'è chi non ha rispetto pur andando in barca a vela e chi invece veramente lo ama. Io diciamo, facendolo per lavoro chiaramente cambia, perché mentre diciamo che quando lo fai da solo ti scegli i posti più belli, ti scegli gli amici con cui andare, quando invece lo fai per lavoro ovviamente tutto questo cambia, perché significa che sei pagato per andare fuori e quindi sei tu che ti devi adattare agli altri. Sì, ma è un po' come se lei portasse persone a visitare casa sua in questo caso, visto che lei conosce in maniera così profonda, così personalmente articolata la vastità del mare. Certo, però se vengono a casa tua e ti pagano vogliono avere anche un servizio. Sì, è come avere un bed and breakfast. Amici, il discorso sì, poi cambia, è più simpatico, diciamo, perlomeno. Questa è la cosa, quando vai per mare, a me è capitato di persone che vanno per mare, per esempio in barca a vela è difficile fare programmi, perché non sai che vento ci sarà, non sai che tempo c'è. Sì, certo, non è la crociera organizzata in cui ogni secondo è scalettato a cronometro. Che a bordo ti dici, io domani devo stare nel tal posto, c'ho un appuntamento con gli amici. E chiaramente tu come skipper, se non vai, possono pensare che non hai voglia di muoverti. E se vai invece c'è cattivo tempo, poi dopo di che stanno male, quindi pensano che comunque è sbagliato a portarli col cattivo tempo. Ma questi sono gli inconvenienti che capitano, penso, un po' in tutti i lavori. Resta il fatto che poi comunque, a fronte di cose un po' negative, ci sono dei momenti molto belli. Io ho girato un po' tutto il Mediterraneo, quindi diciamo che per esempio la Jugoslavia c'ha delle baie stupende, ci sono le Eolie che hanno degli attracchi bellissimi. Melog 2.0. Marinai e sirene. La felicità per un sommergibilista è farsi rapire dalle sirene. Sono un ex sommergibilista. Quando si emerge c'è una sensazione particolare, ma una veramente di completa felicità l'ho avuto diversi anni fa, quando siamo emersi dopo parecchi giorni di immersione anche a quota profonda e siamo venuti fuori al largo della Sicilia, una decina di miglia dalla Sicilia. Il mare era una tavola, c'erano i pesci volanti, era l'alba e si sentiva il profumo delle zagare. Le donne pesce aspettano fameliche nascoste nel profumo di zagara. I marinai, fuori dal pelo dell'acqua, con le teste curiose, cercano tra la nebbia. Quei pochi che eravamo in torretta nella vela del sommergibile, eravamo tutti quanti ammutoliti a vedere uno spettacolo che aveva dell'incredibile. Cerchiamo una linea di galleggiamento possibile comune. tra due diversi orizzonti marini. L'uno è quello del mito, l'uno è quello della suggestione, l'uno è quello del mistero. Il nostro amico sommergibilista che ci racconta le sue immersioni al largo della Sicilia, al profumo della Zagara, e l'impressione che ci possono essere delle sirene che lo stiano osservando. E d'altra parte molti che mi chiedono di descrivere, e già aspettano con la bavetta alla bocca, gli aspetti terribili dell'invasione marina. Le terribilierrime, mi scrive un ascoltatore, riunioni sulla spiaggia con gli accampamenti della domenica, sì, quelli che vanno al mare, si portano il camioncino, aprono il tavolino, aprono le seggioline, aprono il frigo, mettono l'ombrellone, addirittura mettono una specie di gazebo oggi perché ci stia bene tutta la famiglia sotto. E poi viene fuori di tutto, vengono fuori le tagliatelle, viene fuori un maiale arrosto, vengono fuori le bottiglie, bambini che urlano, i padri che giocano a pallone con i bambini e stanno lì e cominciano a mangiare con quelle panze sedute su quelle seggioline che sembrano scomparire attraverso le loro chiappe, e si ingozzano e mangiano e strillano, e con le radio a tutto volume, con i telefonini, con le suonerie e con le riprese, con le fotografie, e poi mettono tutto su YouTube probabilmente, e saremo tutti felici e contenti. Sentire il profumo delle Zagare senza vedere la Sicilia, perché non la vedevamo, però diciamo il vento arrivava dalla Sicilia, e vedere i pesci volanti all'alba, e sotto di noi a 900 metri è passato un capodoglio, cioè noi al massimo espressione della tecnologia, un animaletto tranquillo, animaletto pesantino direi, della natura che passava a 900 metri. Sognano abbracci tra carne di femmina e squame di pesce. Ma non sanno che se ardono di desiderio, sfidano balene e mostri marini. Enrico, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sono in onda, sì. Sì, è in onda, in tutti i sensi. Ecco, sono in onda. Lei dice un uomo di mare, quindi in onda probabilmente c'è da quando è nato. Sì, io ecco, fino a quasi, io ho 47 anni, fino a 38 ho vissuto al mare, ora io vivo in città, a Milano. Pronto? Sì, sì, la sento bene. Pronto. La sto ascoltando. Ecco. Quindi capisco che una fuga è indispensabile dalle città, perché chiaramente è così, però volevo sottolineare ecco la sostanziale differenza tra il mare d'inverno e il mare d'estate. Il mare d'estate, come descriveva lei, un po' insomma, ecco, è quasi tutto più soft, più piatto, mentre invece io che sono uomo di mare, come ripeto, abito in città, dovessi andare al mare, ecco, andrei d'inverno, chiaramente i bambini. Sì, in effetti noi cittadini terrestri associamo il mare al periodo delle ferie, al periodo della fuga, come se per il resto dell'anno non esistesse il mare, scomparisse, come se fosse una sorta di piscina gonfiabile che si mette a disposizione soltanto i mesi estivi, ma non è così. No, assolutamente. Il mare d'inverno fa vedere tutta la potenza vera di quando ci sono le varie forze, delle onde, il fragore, il vento che appunto cambia un po' tutto l'aspetto della costa, delle spiagge. Credo che sia veramente molto molto più romantico, ecco, la situazione invernale, perché è tutta un'altra... Sì, molto chiaro questa possibilità di conoscere, di vivere il mare tutto l'anno per chi è marittimo realmente, questo la capisce veramente, che è nato e vissuto in un posto di mare. Chi invece, come per noi o perlomeno con le persone che ci vivono accanto, il mare è soltanto il luogo dell'immaginario, dell'evasione, il mare d'inverno non esiste. Luca, buongiorno. Buongiorno. Io chiamavo perché mi sono ritrovato molto in alcune persone che mi hanno telefonato e anche in alcune cose che diceva lei. Io sono nato in una città di mare che è Napoli, anche se poi c'è un libro bellissimo che spiega come mai il mare non bagna Napoli. E ho frequentato da bambino, suo babbo faceva il camionista, quindi viaggiava tanto, e mi diceva questa frase, diceva sempre: per le persone povere come noi, il mare è l'unico, lavorare al mare è l'unico modo per viaggiare, vedere il mondo e vederlo tutto. E quindi quando dovetti scegliere la scuola da frequentare, scelsi di fare il nautico, perché io volevo fare il capitano di navi mercantili o di navi da crociera, insomma, preferivo quelle mercantili. Poi è successo che crescendo, insomma, quando c'è stata la possibilità di imbarcarsi, mi ricordo questa frase di Soadi, ho scoperto il mio docente, insomma, ho scoperto la poesia, il sesso e la politica, e quindi non me la sento di vivere tutta la vita al mare. e però mi trovo in questa situazione per cui... Dove naturalmente forse poesia c'è, ma di sesso e politica ce n'è ben poca. Eh sì, forse c'è anche molta sessualità, ma non di quella un po' costretta nei confini. Beh, diciamo. Guardi, le dirò una cosa innominabile, ma visto che dire cose innominabili fa parte del mio retaggio. Esiste un museo dove sono esposte delle bambole chiamate Dame de Voyage, sono il prototipo di tutti i succedani robotici all'arte amatoria. Le costruivano le mogli dei marinai, degli ufficiali, naturalmente le davano ai mariti. Erano delle belle bambole che vestivano addirittura con la loro biancheria, i loro abiti, si trovavano fino a tutto l'Ottocento, mi sembra, c'è anche il prezzario, erano ben costruite e anche molto realistiche nelle parti che non si vedevano. Erano fatte apposta perché non cedessero alla tentazione nei lunghi viaggi in mare di frequentazioni non ortodosse, quindi perché rimanessero fedeli alle mogli, i marinai gli facevano la bambola riempita di pezza, probabilmente. Se fosse vera la storia delle cinture di castità, quello che lei ha raccontato testimonia la generosità delle donne rispetto all'egoismo degli uomini, naturalmente, perché loro si preoccupavano di rendere meno sofferente il viaggio. Ma quello che volevo testimoniare però è che il mare per me poi è rimasto una dimensione interiore, nel senso che io rifuggo da tutti i luoghi che sono, come dire, di grande popolarità, molto affollati, perché ho bisogno, proprio fisicamente ho bisogno di ritrovarmi a contatto con questo movimento e questa voce continua del mare, che amo anche quando magari non è possibile spogliarsi, ma è possibile sentire l'odore, il profumo, e quindi spesso mi capita anche di andare via. Io ora abito in Toscana e mi capita anche di andare via magari da casa, da domenica, d'inverno, per rivedere il mare, insomma stare qualche ora lì vicino. Ecco, adesso vi sottopongo la storia, l'esperienza e la testimonianza di un mio amico che non sento da tanto tempo, lo sento oggi per la prima volta alla radio, penso da un paio di anni. Alberto Lucarecchi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ti ho fatto ascoltare con attenzione perché vorrei tu raccontassi brevemente la tua storia. L'ultima volta ci siamo visti, tu stavi in teatro e rappresentavi in teatro una tua storia con gli squali. Tu avevi un lavoro tranquillo, normale, da essere cittadino, ma in realtà hai sempre covato una grande passione per il mare, ma soprattutto per certe creature del mare, quelle che più fanno paura, quelle che rappresentano lo spauracchio per eccellenza di ogni viaggiatore marino, che appunto sono gli squali. Sì, il mare un po' alla volta è diventato il mio ufficio, una sorta di palcoscenico dove, o di set fotografico dove incontro le mie modelle, e le mie modelle non sono quelle che si vedono sulle riviste patinate, le mie modelle sono appunto gli squali, ma anche altri animali assai meno, se vogliamo, meno suggestivi, insomma anche una cozza può essere bellissima. Senti, ma questa passione, raccontami i tempi della sfumatura da quella che è una professione quella che è una passione poi diventata una professione. Tu hai cominciato ad andare a fotografare squali, a immergerti, a fare reportage dal mare facendo un altro mestiere. Poi lentamente la tua passione è diventata la ragione della tua vita, mi sembra di capire. Sì, sì, è vero. All'inizio ero, tra virgolette, una persona seria con un forte istinto verso la libertà e con una grandissima passione per il mare. E poi ho pattinato un po' tra i due lavori per diversi anni e poi alla fine mi sono detto si vive una volta sola, e quindi il mare è diventato il posto dove mi realizzo, dove mi sento libero, dove poi tra l'altro sento anche una grande responsabilità, perché il mare viene visto un po', come raccontavate prima, spesso o come il posto della abbronzatura, oppure come un terreno di caccia per chi il mare lo vive da pescatore. Non trovi paradossale che ci si abbronzi artificialmente per simulare di essere stati al mare, quindi si ha un effetto totalmente fittizio che dovrebbe avere alle spalle la frequentazione di un luogo che non esiste più, non è mai esistito, rispetto all'effetto che fa su quella pelle? Ma noi oggi facciamo scelte apparentemente non logiche, perché quando per esempio fa caldo noi dovremmo andare dove fa fresco, e quando fa fresco dovremmo andare dove fa caldo, invece d'inverno andiamo in montagna dove fa ancora più freddo e d'estate andiamo al mare dove fa ancora più caldo. Però il mio mare è un'altra cosa. Il mio mare in questo periodo della mia vita, perché poi è cominciato come una grande passione, un amore per gli animali, però ora lo vivo come una responsabilità, perché il mare è, La Terra è sbagliato il nome del pianeta, non si dovrebbe chiamare Terra, si dovrebbe chiamare mare. Perché c'è più mare che Terra. Mi sono interrotto un istante fa parlando con Alberto Lucarecchi, che è un fotografo subacqueo, un esploratore, artista del mare, persona che vive molto tempo della sua esistenza a contatto con le creature del mare. Alberto Luca, ti capita di sognare squali, visto che tu passi con loro tanto tempo? Come a te capita di sognare microfoni, probabilmente. Mi capita perché sono spesso un incubo, ma per la ragione diversa di quello che uno si immagina, perché non si trovano mai, perché andare per mare a cercare di squali nel Mediterraneo è un'impresa, è come cercare veramente una monetina per strada, sì, ogni tanto si incontra, ma se la cerchi non la trovi mai, ne sono rimasti pochissimi, quindi per trovare uno squalo devi farti trovare da lui, perché sennò ci puoi stare mesi, e quindi lo si attira, tutti gli animali si spostano attirati dal sesso e dal cibo. Io ovviamente utilizzo il cibo. Sì, anche perché sarebbe rischioso fare da esca sessuale per uno squalo. Intanto gli squali ne hanno due, ma vabbè, questa ora usciamo dal nostro seminario. Sì, vabbè. E quindi quando lo rappresentano il sogno nascosto di ogni uomo. Anche le femmine hanno due uteri, però, per cui sono abbastanza complementari, anche se poi quindi come le spine della corrente si accoppiano. No, ne funziona solo uno per i maschi, l'altro è di riserva, casomai si rompesse il primo. Quindi sono animali quasi perfetti da quel punto di vista. Sono animali assolutamente ben riusciti, non è un caso che resistono da centinaia di milioni di anni. C'erano molto tempo prima dei dinosauri, i dinosauri sono apparsi e scomparsi e invece gli squali stanno ancora qui, almeno fino alla nostra generazione. Senti, questa rarità di squali invece nel Mediterraneo è una cosa determinata, da azioni umane naturalmente. Dal fatto che ne peschiamo troppi. Dal fatto che ne peschiamo troppi, la natura fa sì che le mamme ne facciano pochi, mentre due tonni fanno centinaia di migliaia di uova, due squali fanno tanti figli quanti si contano. Ma perché vengono pescati gli squali? Scusami le banalità. Vengono pescati perché sono considerati in Oriente un cibo assolutamente afrodisiaco e soprattutto... Ah, per via dei due piselli? Per via delle pinne. Ah. Per via delle pinne. Solo che non c'è nessun animale che può essere uno status symbol per 1,5 miliardi di persone. E tra l'altro nel Mediterraneo vengono anche spesso presi per errore. Dovrebbero, non so, mettere in giro la leggenda che le meduse siano afrodisiache, che adesso è l'incubo dei nostri mari. Così si pescano quelle, si mangiano quelle. Probabilmente... Le meduse appaiono in genere quando ci sono pochi pesci. Siccome in natura non è previsto il vuoto biologico, noi abbiamo pescato tanti pesci e ora ci ritroviamo tante meduse. Quindi è un po' quello che ci meritiamo. Però voglio dire che il vero terrore del Mediterraneo, tra l'altro nel Mediterraneo è stato preso il più grande squalo bianco di tutto il pianeta, non è stato preso chissà dove, in un'isola tropicale, no, proprio a casa nostra. Una femmina di oltre 6 metri che aveva nella pancia un sacco di cose, un delfino, un altro squalo, anche alcuni sacchi di immondizia. Però oggi trovare uno squalo nel Mediterraneo è veramente un'impresa. Vorrei dire una cosa, ecco, capiterà sicuramente quest'estate che leggeremo su un giornale, che ci dirà la televisione, avvistato uno squalo a Rimini piuttosto che a Portofino. Bene, evviva per quella costa, per quel mare, per quell'assessore al turismo, per quei bagnanti che stanno in quel posto di mare, perché la presenza di uno squalo segnala l'acqua pulita. Se c'è un predatore, ci sono pure le prede. Allora, finché gli squali si tengono lontani dai nostri mari, possiamo avere la certezza che in quei mari naturalmente non tutto l'ecosistema è come dovrebbe essere. Grazie Luca Recchi, sentiamo Diego. Diego, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Lei ha un atteggiamento contrario rispetto a quello che stiamo dicendo, sta talmente tanto in mare che vorrebbe tornare a terra ogni tanto. Sì, allora io lo vedo, intanto mi scuso per aver perso alcuni interventi, ma ero in macchina, adesso sono già in mare a lavorare e quindi ho perso parte degli interventi di altri radioascoltatori. No, volevo portare la mia testimonianza, che è questa: per chi vive giornalmente il mare, io sono nato sul mare, vivo in una città di mare, non potrei vivere senza il mare, ma per chi naviga, a volte la sensazione è proprio l'opposta, cioè quella di desiderare la terra. Infatti sulle navi i comandanti, ora non parliamo navi da crociera, ma parliamo navi da carico, non so, portare infuse, chimichiere, petroliere, chiunque sul ponte ha vasetto con un po' di terra, con la piantina di basilico piuttosto che la piantina di pomodori. Quindi c'è questo tentativo di portare lontanissimo con sé comunque della terra. Beh, la nostalgia del marinaio è sempre quella comunque di una terra ferma, è una sorta di altalena del desiderio fra quello di voler fuggire quando di questa terra ferma si saturi e quella di voler tornare a qualcuno o qualcosa che l'aspetta. E questo probabilmente è una delle chiavi fondamentali di tutta la mitologia, la favolistica, la narrativa, l'immaginario legato al mare. Nessuno meglio della nostra ormai ospite fissa Silvana De Mari può raccontarci brevemente, proprio in chiusura, quanto il mito, quanto la favola, quanto la narrativa si lega al mare. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno. Lei è d'accordo che il mare rappresenti un grande ispiratore di suggestione e allo stesso tempo un grande uccisore di immaginario quando il mare è la spiaggia per andare a far bisboccia e mangiarsi la porchetta? Il mare è in assoluto l'archetipo, perché nelle nostre vene scorre acqua salata, perché la vita si è formata nell'acqua salata, perché il pianeta è il nostro pianeta vivo, perché esiste il mare. In qualche maniera il mare è anche l'ignoto, è la parte che noi dobbiamo superare. Il mare è la nostra sfida, il mare è la vita, il mare è anche la morte, il mare può ucciderci in qualsiasi momento. E io sono anche molto più tollerante nei confronti delle persone che vanno al mare a formarsi di ambra solare e a fare bisboccia. Partendo da una generazione, sono nata nel 1953, del miracolo economico, per la prima volta il popolo, la plebe, i poveri osava andare al mare. Tutti insieme, dopo aver ricostruito un'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, in una miseria assoluta, con una speranza assoluta, si provava ad andare al mare, a formarsi di ambra solare e di godere le onde in maniera senz'altro, un po' volgare, un po' cafona. Sì, ma era anche il grande privilegio di avere a disposizione più dimensioni di vita, non condannati sempre a stare nello stesso luogo geografico e fisico, poter uscire. Quanto il mito di Ulisse poi ha ispirato tutta la narrativa, quanto fa parte comunque di un filone narrativo? Ulisse che fugge, Ulisse che lascia alle spalle qualcosa, Ulisse che viene sempre preso da questo desiderio comunque di andare oltre rispetto al luogo in cui si produce come essere umano. Certo, Ulisse è un eroe straordinario, è un eroe straordinario che passa da un poema epico all'altro. Ulisse nasce nel suo poema epico, l'Odissea, e da quel poema epico passa al nostro poema epico, che è la Divina Commedia. La Divina Commedia è il poema epico dell'Italia. Il poema epico è una narrazione da cui si trae coraggio quando lo si è perso nel buio e dove si forma la lingua di una nazione. La Divina Commedia è il nostro poema epico, ce lo dice De Santis, certo, ma ce lo dice soprattutto Primo Levi. Quando disperso nel campo di sterminio di Auschwitz recupera la sua umanità raccontando nel suo smozzicato francese del folle ruolo di Ulisse a un compagno alsaziano. Ulisse siamo noi, Dante Ulisse, Dante va oltre le colonne d'Ercole, Dante osa diventare Dio decidendo chi va all'inferno e chi va in paradiso, chi va in purgatorio. In questo forma il moderno umanesimo, perché una persona veramente spaventata da un Dio crudele non avrebbe mai osato scrivere la Divina Commedia. Ecco, Dante, Silvana De Mari, lei sì, è inarrestabile quando noi diamo uno spunto e una suggestione. Vedo che poi la catena delle successioni ci porta molto lontano. Mi piace concludere con lei l'idea che il mare in fondo è un'infinita fonte di suggestione, di approfondimento, e anche nella nostra misera e limitata esistenza pubblica è una forma per poter sognare anche soltanto un mese all'anno, 15 giorni all'anno, una settimana all'anno, purché il luogo del sogno sia quello condiviso da sempre per l'umanità. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0. 2.0.